Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'Isola di Arturo, di Elsa Morante. L'apertura della valigia di Nunziatella fu per me una delusione. Apparvero solo alcuni informi straccetti, un paio di zoccoletti comuni e un abito a fiorami leggero, già usato e scolorato dal sudore. Vi era poi un fazzoletto grande da testa, ma non così bello come quelli dipinti di rose che mio padre soleva mettersi come sciarpe. E nient'altro. La valigia era già quasi vuota. Soltanto rimaneva ancora, sul fondo, uno strato di fogli di giornale di carta straccia, il quale, come si vide subito, serviva a proteggere alcuni quadretti incorniciati. Erano tutte immagini della Madonna, ed ella le traeva fuori con sommo rispetto e, deponendole via via sul cassettone, le baciava prima, una per una. Ella non credeva a una sola Madonna, ma a molte. La Madonna di Pompei, la Vergine del Rosario, la Madonna del Carmine e non so quali altre, e le riconosceva dal costume, dal diadema, dalla posa, come fossero tante regine diverse. Poi, al di là di tutte queste vergini e dei loro bambini e di tutti i santi e le sante dello stesso Gesù, c'era Dio. Dal tono con cui la mia matrigna lo nominava, si capiva che Dio, per lei, non era un re, e nemmeno il capo di tutto il santo esercito, e nemmeno il padrone del paradiso. Era molto di più. Era un nome, unico, solitario, inaccessibile. Non gli si chiedono grazie e neppure lo si adora. E in fondo, il compito di tutta l'immensa folla di vergini e di santi che accoglie le preghiere, i voti e baci, è questo: salvaguardare l'inaccessibile solitudine di un nome. Questo nome è la sola unicità che si contrappone alla molteplicità terrestre e celeste. A lui non importano le celebrazioni, né i miracoli, né i desideri, né i dolori e nemmeno la morte. A lui importa solo il bene e il male. Questa era la religione della mia matrigna, o almeno così ho creduto di poterla ricostruire io dal suo contegno e dai suoi discorsi quel giorno e in seguito attraverso la nostra vita comune. Si tratta però necessariamente di una ricostruzione imperfetta, anche perché la mia matrigna, nel discorrere con altri delle cose sante, era sempre trattenuta da una specie di pudore. E seppure in qualche grande occasione si effondeva con eloquenza sugli argomenti della sua fede, sempre lasciava certi punti nel silenzio e nel mistero. Così, per esempio, ancora oggi mi è difficile dire che idea ella avesse in particolare del diavolo, o addirittura se credesse alla sua esistenza. Thank you. delle vergini portate da Napoli, un certo numero, almeno 3 o 4, ne furono appoggiate in fila contro la specchiera del cassettone, ma ve n'erano ancora altrettante dentro la valigia per le quali la specchiera non aveva più posto. Esse furono collocate ciascuna con un bacio sul tavolino da notte e sul davanzale della finestra. Disposte che ebbe le sue vergini, la sposa le rimirò tutte intorno per la stanza. Poi mi domandò se credevo che mio padre le permetterebbe di appenderne una di là in camera a capo del lettino in cui lei doveva dormire. Alzando le spalle alquanto scettico, io le risposi: «Credo di no». Indi le dichiarai severamente: «Noi non crediamo a nessuna Madonna». E soggiunsi: «E nemmeno a Dio». «Tuo padre però adesso è cristiano», ella ribatté con gravità, tale sua frase che lì per lì io lasciai cadere distratto, doveva manifestarsi in seguito alla mia memoria come una primizia sorprendente. Dalla nostra breve discussione sulle immagini domestiche, il pensiero della sposa parve ricondotto, a proposito, sull'argomento dell'antenato, evocato poco prima da mio padre. E piena di perplessità, si decise a domandarmi se davvero, in giro per il castello, c'era quello spettro odiatore di donne. Io, alla sua domanda, alzai di nuovo le spalle con una smorfia. La sua credulità mi stancava. «Ma perché non capisci?» proruppi. «È vero che qua dentro una volta ci abitava quella Amalfitano, ma è morto. Conosci che cosa significa morto? Insomma, è da sapere che mio padre non ci crede agli spettri, io nemmeno. Gli spettri non esistono da nessuna parte, sono leggende romantiche». Essa mi si avvicinò e, circospetta, in un bisbiglio solenne, mi affermò che invece gli spettri esistono. Lei non ne aveva veduto mai nessuno, ma, per esempio, una signora conoscente della sua comare, che faceva l'infermiera di notte all'ospedale degli incurabili, ne aveva veduti a centinaia. «Però io», disse infine, «seppure li vedo, che fa? Quelli non sono cosa da mettere paura». E mi spiegò che quelli sono semplicemente dei disgraziati, dei peccatori in pena, i quali, come inermi e miseri mendicanti, vanno elemosinando preghiere per la propria pace eterna. All'aspetto non hanno più una figura di cristiani, ma sembrano appena dei cenci di biancheria che sventola. E basta dire un requiem per loro che subito vanno via. We'll be right back. tentato di rivelare a Nunziatina che i morti, quasi di sicuro, non hanno più spirito, che nella morte tutto si spegne e che la sola sopravvivenza è la gloria. Ma poi subito, ripensandoci, mi disse che non servirebbe a nulla informarla di certe cose. Difatti, per lei, la gloria non poteva mai darsi, e perciò tanto valeva lasciarla illusa nelle sue opinioni. Mi contentai dunque di farle notare con sarcasmo: «Beh, ma se basta una preghiera a scacciarli, tu perché hai paura di stare sola la notte?» «Ma mica è di loro che mi metto paura», essa protestò risoluta e quasi indignata. «Sarebbe da vergognarsi a mettersi paura di loro, né di loro né di nessun'altra cosa. Mica io sono come mia sorella che alla sera si prende paura perfino degli occhi d'un gatto. Per me, pure se viene il fulmine o la gente di malavita, io non mi metto paura mai. Domanda alla mia madre se non è vero, che io non mi metto paura mai di nessuna cosa.» «Però», io pensai senza dirglielo, «di mio padre è paura.» «L'unico spavento per me», riprese lei come sforzandosi di spiegarmi qualcosa di assai difficile che lei medesima non sapeva bene spiegarsi, «è questo, di stare sola, ma mica per qualche ragione, è proprio quel fatto di stare sola, senza nessuno vicino, è proprio la paura di stare sola, mica nient'altro che mi mette paura. E poi, allora a questo mondo perché dovrebbero esserci tanti cristiani se non fosse per riunirsi insieme? E mica solo i cristiani, pure gli animali, di giorno magari vanno girando separati, ma di notte si ritirano tutti quanti insieme.» «Non è vero», io le ribattei deciso. «Certi animali sanno stare nella solitudine e sono magnifici e superbi come gli eroi. Il gufo va e si posa quasi sempre solo, e il bue marino va girando solo le notti, e l'elefante si incammina da solo per andarsene lontano quando deve morire. E l'uomo poi ha molto più cuore di tutti quanti gli animali. Lui è uguale a un re, è uguale a una stella. Io», conclusi orgogliosamente, «sono stato sempre solo in tutta la mia vita.» «E così è la sorte di chi non tiene la madre», essa commentò con una tale ingenua compassione che la sua vocetta agra e insipida ne suonò melodiosa. Aggiunse come se enunciasse un raro pensiero filosofico, «la madre è la prima compagnia in questa vita, che nessuno mai se ne scorda.» «Anche il mio destino», dichiarò poi d'un tratto maestosamente, «è stato di orfana, perché io sono restata senza padre, e senza fratello pure sono restata. Mia madre, mia sorella e io, solo tre femmine, ecco com'è restata la nostra famiglia. Prima di mia sorella c'era un fratello più piccolo di me, teneva 8 anni quando è morto. Hanno fatto 5 anni a Natale dal giorno della sua fine. Morì assieme a mio padre, in quella gran disgrazia, quella famosissima.» «Che disgrazia?» mi informai, preso da subito interessamento. Difatti, dal suo tono di grande aristocrazia, m'aspettavo che la disgrazia di cui si trattava fosse derivata per lo meno da qualche eccezionale raid aereo o altro simile avvenimento di importanza mondiale. E quella famosa disgrazia del carico della Pozzolana, che fino a Roma se n'è parlato, che ci restarono 4 cristiani e quante belle esequie ci furono per loro. C'è venuta pure la banda, l'autorità, tutto pagato dal comune, i cavalli, la corona, tutta cosa. Mio padre era andato sul lavoro, e pensare che di solito scioperava sempre perché era assai sfaticato. Di mestiere preferiva il signore, lui era così. Ma in quella settimana s'era sentito la volontà e era andata a lavorare allo scarico della Pozzolana, e mio fratello gli ha portato il mangiare. Avevamo fatto la pasta in bianca, che a mio fratello gli piaceva più di tutto, perché mio fratello aveva tutte idee speciali, per esempio il sugo, ma mica gli piaceva, e mia madre gli disse: «Prima va e la porti a tuo padre e poi torni a mangiare assieme a noi altri.» E lui, brontolando per questo fatto, se ne andò col piatto di mio padre legato dentro al tovagliolo. E così fu l'ultima cosa che abbiamo visto di lui. È stata la fatalità del destino. universal traveler, universal traveler, just feel everywhere at home. Tomorrow is a brand new day, let's go somewhere else. Universal traveler, universal traveler, universal traveler. Questo racconto, benché tragico e commovente, a dire la verità mi aveva alquanto deluso. Tuttavia, per non offendere la mia ospite, non le manifestai la mia delusione. Anzi, per mostrare un contegno di circostanza, feci un gran sospiro. Ed ella, assorta nella maestà dei suoi lutti, mi ricambiò con uno sguardo fiducioso e grato. Quindi, sospirando a sua volta, osservò con quel suo tono meditativo da pensatrice: «Sì, per la morte un uomo grosso e un guaglione sono tutti uguali. Per lei sono tutte creature». Al dir ciò, la sua povertà di ragazzetta parve rivestirsi di una grande età anziana, piena di chissà quale sapienza e quasi regale. Ma intanto, nel suo mesto compianto funebre, già s'affacciava una consolazione bambinesca. Alla fine, però, asserì convinta, «verrà il giorno che le famiglie si riuniranno tutte quante un'altra volta nella vera festa eterna». Qui si arrestò, come timorosa di ombrare, con qualche sua indiscrezione di femminella, quella festa non terrestre, e accennò solo, piena di rispetto misterioso, al modo di chi recitasse i libri esotici di una sacra sibilla o del profeta Daniele: «Già, chi si prende paura della morte sbaglia proprio, perché quello è un travestimento, mica è altro, che a questo mondo apposta ci si fa vedere bruttissima, come fosse un lupo, ma invece là nel paradiso ci si farà vedere al vero, che tiene una bellezza di Madonna, e difatti là cambia pure nome, che non si chiama più morte, ma vita eterna, che là nel paradiso veramente a dire questa parola morte nessuno ti capisce». Si interruppe, dondolando il capo con un'aria segreta e invaghita, quasi che la sua immaginazione le anticipasse già, sia pure al minimo, gli splendori di quel futuro, di cui però non si doveva, per giusta riverenza, troppo parlare. Poi, finalmente, riprendendo, non si peritò di concludere. «E così, all'ultimo giorno, quella bellissima vita eterna ci si presenterà là sulla porta ridendo vicino alla Beata Vergine Incoronata, come un'altra madre di tutti i cristiani che ha preparato una grande festa per loro senza finire mai. E là ci ritroveremo con mio padre, con mio fratello e anche con gli altri miei fratelli e sorelle che morirono chi appena nato, chi in fasciola». Dal suo sorriso credulo e ammaliato, di una fresca gioia un po' selvaggia, era evidente ormai che per lei la impassibile indifferenza dell'eternità si trasformava senz'altro in una gran fiera favolosa di luminarie e canzonette, balli esultanti e piccirilli e ragazzini. Mi fece sapere, riprendendo quella cert'aria di pompa nobiliare da lei spesso usata a proposito della sua famiglia, che, oltre a lei stessa, nunziata, primogenita della figliolanza, sua madre aveva fatto ancora altri 9 figli, fra maschi e femmine. Quasi ogni anno, difatti, si sgravava nei 12 anni che era stata maritata, tanto che le sue conoscenti le dicevano: «Violante, nunziatina vostra non ha bisogno di farsi la pupata, ci pensate voi a far brigargliene sempre un'altra nuova». Ma purtroppo la volontà di Dio era stata che i più di quei numerosi nati, prima ancora ad aver imparato a camminare sulla terra, se ne rivolassero in cielo. Per fortuna nessuno di loro era partito senza il santo battesimo, e anzi ella si dette a mentovarmeli col loro nome di battesimo uno per uno. C'era un Gennaro, 2 Peppini, un Salvatore, un'Aurora, un Cicillo e una Cristinella. Infine il suo volto si fece vagamente perplesso e disse: «Se ci ripenso a quei fratelli là, ho il dubbio di non saperli nemmeno riconoscere in un domani. Me li ricordo come fossero tutti uguali, della stessa stampa». Ma si capisce che là nel paradiso ci si riconosce senza nemmeno dire il nome, le parentele si vedranno scritte in fronte. E tu pure là ritroverai tua madre e potremo stare tutti quanti insieme, fare tutta una famiglia. Nella mia mente passò la visione della madre di Arturo, solitaria e sdegnosa di ogni promiscuità, che nella sua bella tenda orientale si allontanava dall'isola di Procida senza dirgli addio. Risposi duramente: «Per i morti non ci sta nessuna famiglia, nella morte non si riconosce più nessuno». Essa mi guardò come un dotto guarda un ignorante, ma tuttavia con profondo rispetto, e non si permise di replicare. Solo dopo un secondo, avvolgendosi un ricciolo intorno alle dita, osservò con una vocina sognante: «Pure quel fratello mio che ti dicevo aveva tutte opinioni sue speciali, che lo chiamavano il ragioniere, perché ragionava sempre, e quando parlava lui tutti si mettevano zitti. Lui di nome faceva Vito». Dopodiché tacemmo per un poco. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.